un saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici che con la loro radiolina sono sintonizzati sugli 87.9 e anche a tutti coloro che ci ascoltano attraverso lo streaming, attraverso il sito della radio www.ondarossa.info, ascoltare la diretta. Un saluto più affettuoso va in particolare a chi ci ascolta ed è privato della sua libertà personale. Oggi è giovedì 15 ottobre. Sono le 15.02, siamo puntualissimi, inizia Tracce di Cinema che oggi vi farà ascoltare la colonna sonora di un film, Il Lato Positivo, che ha molti lati positivi. Infatti, oltre ad essere un film gradevolissimo, ha anche una bellissima colonna sonora che ci ascoltiamo insieme. Apriamo le danze. Avete ascoltato Silver Linings Titles di Danny Elfman ed è proprio un brano che è stato scritto per il film da Danny Elfman, che ha anche curato l'intera colonna sonora e ha scritto più di un brano per questo film. Il film, stiamo parlando di Il Lato Positivo, che in inglese ha il nome Silver Lining Playbook. Danny Elfman ha lavorato al cinema con molti registi, con Sam Raimi, Gus Van Sant, lui che ha fatto, per dire, le colonne sonore anche di Batman, dei primi film di Batman e anche di Mission Impossible. Ha anche un gruppo suo rock che si chiama Oringo Boingo. Diciamo che in questa colonna sonora proprio attinge a piene mani da un eterogeneo repertorio che passa dalla musica rock alla new wave, no? Sì, praticamente il film stesso sta proprio a metà fra una commedia e un dramma, no? E il, con la musica questo è ben espresso, nel senso ci sono pezzi di vari tipi, da Bob Dylan con Johnny Cash ai White Stripes, quindi, oppure sì, Dave Brubeck che fa un lavoro minuzioso e intelligente, perché riesce proprio a collocare ogni traccia, ogni pezzo sull'onda delle emozioni dei due protagonisti. Questa era Unsquare Dance, scritta da Dave Brubeck e suonata dal Dave Brubeck Quartet, ovvero del sassofonista Paul Desmond, il bassista Eugene Wright, il batterista Joe Morello e Dave Brubeck ovviamente. Ed è un pezzo interessante perché è jazz, però ha sicuramente un'influenza diciamo un pochino blues. È scritto in sette quarti ed è questa una caratteristica di Dave Brubeck, di scrivere i pezzi con tempi dispari, no? Infatti Take Five, avete presente? Da notare che nella canzone si può sentire, cioè, con un ascolto attento, magari in cuffia, delle risate, sì, perché loro si divertivano tanto a suonare, erano anche molto amici. E The Dave Brubeck Quartet è un quartetto jazz fondato da un surfista, Dave Brubeck, e lo dico perché sono surfista e quindi ci tengo a fare questo gemellaggio con Dave. È attivo per più di 60 anni, dai primi anni 50 fino al 2012. Nel 1951 fondò il Dave Brubeck Quartet, in cui figuravano appunto Paul Desmond al sassofono contralto, Bob Bites al contrabbasso e Joey Dodge alla batteria. Nel 1953, con l'etichetta fondata da Brubeck, la Fantasy Record, il quartetto registrò il suo primo album Jazz Oberlin, uno dei primi album live della storia del jazz. Nel 1954 fu la volta di The Birth of a New Kind of Jazz Age in USA, e nel 1956 ingaggiò il batterista Joey Morello, come abbiamo detto, per il loro album più importante, Time Out, che ha venduto più di 1 milione di copie. Pensate che, insomma, per il jazz, insomma, sono belle cifre, sì. death without words. I am here, life does fall. Future tributes to Tom Sunny Green. Stiamo ascoltando la colonna sonora del film Il Lato Positivo, Silver Lining Playbook. Abbiamo ascoltato il brano Buffalo, suonato dagli Alt J, band indie inglese emergente, insieme al gruppo, il trio femminile Mountain Man. Il pezzo è tratto dal loro disco di esordio An Awesome Wave e ha conquistato il famosissimo premio Mercury Prize nel 2012 per miglior album britannico dell'anno. E invece del film volevo dire che è stato tratto da un romanzo di Matthew Quick, Silver Linings Playbook, L'orlo delle nuvole, diretto appunto da David Russell, di cui ne parleremo, regista anche di The Fighter. È stato presentato al Toronto International Film del 2012, dove ha vinto il People's Choice Award, e poi è stato candidato agli Oscar per 8 premi Oscar, pensate, ma ne ha vinto solo uno per miglior attrice protagonista, Jennifer Lawrence, giovanissima, aveva 22 anni all'epoca. Avete ascoltato dei White Stripes, Hello Operator. Hello Operator è contenuto nel secondo disco dei White Stripes, The Steel, è quello che gli ha dato il primo grande successo. Infatti i pezzi proprio Hello Operator e Death Letter hanno avuto molto seguito. E chi sono i White Stripes? Chi sono? È una band composta da fratello e sorella. Non è detto. Non è detto, comunque ufficialmente sono fratello e sorella, Jack White e Meg White. Jack fa chitarra e voce e Meg alla batterista, fra l'altro è molto brava anche come batterista. Sì. Sono di Detroit e hanno cominciato nel 97. Una curiosità, che probabilmente molti che la sanno tutti, che nel 2006 una loro canzone, Seven Nation Army, dopo essere stato usato come coro dei tifosi della Roma, è diventata addirittura canto dell'Italia, campione del mondo. Non ve lo canticchio, perché sinceramente no, per carità. Senti, invece volevo raccontarvi un po', insomma, la trama. Questo film è un film su una scommessa con se stessi, no? E con gli altri. Non è forse un film perfetto, ma è sicuramente ben strutturato, e parla di Pat, che è un adulto bipolare che dopo 8 mesi trascorsi in un istituto psichiatrico ha un solo obiettivo: riconquistare la moglie, che però non può vedere perché ha ottenuto un'ordinanza restrittiva nei suoi confronti. Quindi la vita di Pat è tesa verso il ricongiungimento con la moglie, fino a quando non incontra Tiffany, Jennifer Lawrence, una bellissima ragazza i cui sogni sembrano essersi infranti nel momento in cui il destino ha preso una piega inaspettata. Tiffany gli propone il suo aiuto, ma Pat dovrà fare qualcosa in cambio per lei. Improvvisamente le loro disastrate esistenze si trovano una svolta e i due, non cambiando nulla di quello che sono, si trovano coinvolti in un rapporto che va al di là della semplice amicizia. E io trovo che questa è veramente una bella storia in cui si riesce a mescolare la commedia con il dramma della malattia, della depressione, in modo sapiente, senza cadere nella retorica, né tantomeno essendo superficiali. Quindi secondo me il regista ha fatto un gran bel lavoro. If I say to you tomorrow, take my hand, child, come with me. It's to a castle I will take you, where what's to be, they say, will be. And if the wind says it's been sailed away, leave the day way up high in the sky. And won't, but the wind won't blow. We really shouldn't go. It only goes to show. If you say to me tomorrow, oh, what fun it all would be, then what's to stop us, pretty baby? But what is and what should never be? I can't go in, see it's been sailed away, leave the day way up high. Thank you. what you need so bad. What is and what shall never be, scritta da Jimmy Page e Robin Plant. Stiamo parlando del bellissimo brano dei Led Zeppelin, contenuto nel secondo disco, proprio Led Zeppelin 2, ed è un brano che, di cui hanno fatto numerose cover, ad esempio Helen Keller, Page and Plant, Dread Zeppelin, Ursula, Jason Bonham, The Section e Tracy G. Insomma, stiamo parlando veramente dei capostipiti del rock. È un brano che alterna blues e melodie, rock più forte, tutta con naturalezza, come fanno loro all'interno di un solo brano, notevole. Sì, un album dove non è possibile trovare un difetto. E questo film, che è un po' uno schiaffo alla perfezione, al perfezionismo, e spinge un po' a andare oltre ciò che si vede, è però alla fine anche perfetto, perché comunque ha un cast fantastico, e che invece è stato movimentato. Inizialmente, infatti, Pat doveva essere interpretato da Mark Wallenberg. Boogie Night e La Tempesta Perfetta, per me un perfetto sconosciuto, anche prima, insomma, di leggere di lui. E la protagonista femminile doveva essere invece Rachel McAdams, un'altra sconosciuta. Voi la conoscete? No, infatti. Futura protagonista del film di Cameron Crowe, un nostro amico sotto il cielo della Hawaii, ne abbiamo parlato la scorsa puntata. Beh, insomma, la scopriremo se è brava come dovrebbe essere, o forse Anne Hathaway doveva essere, o addirittura Angelina Jolie. Ma insomma, il regista poi ha deciso per Bradley Cooper e per Jennifer Lawrence, che ha vinto appunto il premio Oscar, e secondo me non ha sbagliato, perché insomma sarebbe stato un altro film senza di loro, che erano assolutamente perfetti. Send it, Mama. You understand that? No. Well, like, I don't understand how you can, because, like, I've been to, you know, Paris, Beirut, you know, I've been to Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very fluent Spanish. Todo está bien chévere. You understand that? Bien chévere. Chévere. Bien chévere. Is that right, Mama? Yeah, because I got my shaking room, my little friend. Everybody's got a thing, but some don't know. Always reaching out in vain, just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, Mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag, that you must go other places, but just don't you Don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. Cause I'll be standing on the side when you check it. Don't You Worry About A Thing, abbiamo ascoltato una canzone scritta, prodotta e registrata da chi? Da Stevie Wonder nel 73 e pubblicata come terzo singolo estratto dall'album Inner Visions. Oh, ci porta Stevie Wonder all'ospite di questa puntata, di questa settimana, che è Emanuele Sacchi, che collabora con Rumore e che collabora con My Movies, già è stato ospite nella mia trasmissione di Cinema Visionari. Ci sei, Emanuele? Sì, ciao Federico, oh, gli ascoltatori. Ben ritrovato, come va? Va tutto bene, fa solo un po' freddo qua su Milano, ma per il resto tutto ok. Si può fare. Senti, allora, abbiamo scelto questo film di David O. Russell, poi generalmente i nostri ospiti sono liberi di parlare del film, della sua colonna sonora o della filmografia in generale del regista. Quindi, diciamo, comincia tu, vai a ruota libera, Emanuele. Sì, un film quello di Russell, particolarmente importante perché in un certo senso riaggiorna la classicità della commedia americana alla contemporaneità, mescola elementi di per sé molto eterogenei, molto classici e molto nuovi, anche espliciti, anche per il tema di trattare il disturbo bipolare, di trattare dei disturbi della psiche, delle cose che il cinema classico per tante ragioni non poteva affrontare. E aiutato in questo da un protagonista veramente accattivante. Sì, da una coppia che curiosamente è nata dopo molti ripensamenti, nel senso che sul film Russell ha lavorato per molto tempo riscrivendo la sceneggiatura, cercando l'interprete adeguato, anche perché sentiva molto questo film, perché il suo figlio soffre di disturbi e quindi la sente anche molto come una vicenda personale. Sì. Per cui l'attrice protagonista ha cambiato molti volti, doveva essere Anne Hathaway, potevano essere molte altre, e alla fine si è scelto Jennifer Lawrence, scelta quanto mai rivelatasi azzeccata, ideale, tanto che l'ha portata all'Oscar e alla fama però inizialmente c'erano dei dubbi anche dovuti alla differenza di età, alla grande differenza di età tra i protagonisti, quindi una storia d'amore tra due attori che comunque hanno una differenza di età cospicua, diciamo. Sì. È un film, la colonna sonora è particolarmente rilevante in questo film, perché è un film che si basa appunto sulla dualità, sulla dualità uomo-donna, sulla dualità di disturbi che hanno della psiche i due personaggi, e in particolare sulla dualità del bipolarismo, quindi degli sbalzi di umore, in particolare di Pat Solitano Junior, del protagonista. Questo si rispecchia totalmente nella colonna sonora, che è una colonna sonora bellissima, soprattutto quella del film, perché per ragioni di diritti sui brani e tanti altri, il disco della colonna sonora uscito rimane molto bello, ma mancano molti dei brani che si sentono nel film e che sono anche a volte molto rilevanti. Questa dualità si rispecchia innanzitutto nel mescolare brani che appartengono alla classicità, intesa in senso lato, in senso ampio, quindi che abbraccia tanto Frank Sinatra, Dave Brubeck, Ella Fitzgerald, il jazz del passato, con la classicità del rock anni 60 di Bob Dylan nel duetto famoso con Johnny Cash di Tears from the North Country, sì, con Led Zeppelin, e la contemporaneità di White Stripes, di Eagles of Death Metal, addirittura di Jesse J o del pop alternativo degli Alt J. Quindi una colonna sonora particolarmente eterogenea, che mescola queste cose e salta continuamente tra brani di estrazione molto diversa, un po' come salta e sobbalza l'umore del protagonista. Sì, e sì, mi permetto di insistere su questa dualità perché si rispecchia ancora in altre cose, ad esempio la scelta di White Stripes, che sono un po' il tema che ritorna della prova di ballo centrale di Bradley Cooper e Jennifer Lawrence, e che sono composti da un uomo e una donna, e inoltre la scelta del brano trainante della caduta nell'abisso, se vogliamo, del protagonista, della sua crisi con suo padre, che è What Is and What Should Never Be dei Led Zeppelin, che è un brano appunto che forse è l'archetipo del brano hard rock, con sbalzo tra lento e hard rock, appunto. Sì. Quindi è tutto costruito su questo sbalzo improvviso che è gestito molto bene da Russell. Appena prima si sentiva Stevie Wonder, su cui si può fare un discorso diverso, ma che comunque rientra in questa eterogeneità, nel senso che la prova di ballo dei due protagonisti è così sensazionale ed è così strana e bizzarra, anche perché mescola White Stripes e Stevie Wonder, e cose completamente diverse tra di loro, e contribuisce sicuramente alla riuscita del film. Oh, non secondaria è la presenza di un esperto come Danny Elfman, che ha scritto come autore intere colonne sonore, temi musicali, è stato presente ed è presente anche nel film con il suo gruppo musicale. Lui veramente ha firmato le colonne sonore di tanti e tanti film ad Hollywood e non solo. Sì, in particolare ha lavorato con Tim Burton. Sì. Non solo con lui, diciamo che è uno di quei dei pochi compositori, dei non molti compositori di cinema oggi, soprattutto dei film mainstream importanti, che riesce a caratterizzare con un tocco suo molto personale, che si sposa perfettamamente con l'estetica goth e surreale di Tim Burton, ma che ha saputo sposarsi anche con altre estetiche di altri autori. È sempre più utilizzato da Danny Elfman ed è davvero uno dei pochissimi di cui si può dire che non ci siano colonne sonore, insomma, di risulta, diciamo, che si sente che sono dello stesso autore, ma nel senso che si sente che sono un po' troppo vicini al suo stile e poco personali. Invece quelle di Elfman si distinguono sempre molto. Sul lato positivo, tra tante cose di cui si potrebbero dire, mi piace anche ricordare che una delle ultime grandi recensioni del grandissimo Roger Ebert, che spese una frase emblematica per il film, qui disse: "So good it could almost be a terrific old classic." e in effetti, come al solito, con il suo dono di sintesi ha saputo individuare immediatamente in questo film, che è piaciuto a un ampio raggio della critica, anche quella più, di più come IndieWire, più coraggiosa, più bizzarra, e proprio per questa sua capacità di parlare al presente, parlare all'oggi con la tecnica e la velocità di sceneggiatura e il ritmo di regia di oggi, quello di Russell, ma di abbracciare la struttura con l'happy ending, con un certo tipo di scene romantiche, con un certo tipo di discesa e poi crescita del personaggio nel suo difficile percorso, che è quella dei film di Cukor, di Capra e del grande cinema classico americano. Oh, notevole anche la scelta delle musiche nella filmografia di Russell, perché per esempio uno dei film che avevamo in cantiere, che prima o poi probabilmente tratteremo, è American Hustle. Insomma, è la musica nei suoi film è sempre un elemento portante. Sì, è un elemento estremamente importante in American Hustle, che è un film molto diverso in realtà dal lato positivo. The Silver Linings Playbook, come lo si voglia chiamare, si basa moltissimo sulla contestualizzazione temporale, sì, su questi vestiti, su questa estetica, su questo modo di girare, su questo omaggio e non omaggio a Martin Scorsese, in un certo modo, di riprendere gli anni 70, che si riflette tantissimo nella musica. Anche lì c'è un'attenzione alla colonna sonora pazzesca, quasi tarantiniana, per come meticolosamente va a recuperare, sì, brani non molto noti della disco, del funk degli anni 70, e li sappia mescolare molto bene. Chiaramente più omogenea, dove la colonna sonora del lato positivo è proprio la sua forza, è proprio questa eterogeneità. Sì, sì, sì, sì. Senti Emanuele, noi poi ad ogni ospite chiediamo anche un contributo musicale, nel senso, se ci sono film di cui ti piacerebbe che trattassimo noi in una delle prossime puntate, che ti stanno a cuore per la loro musica in special modo. Beh, se posso quindi proporre liberamente, mi piacerebbe valorizzare un film che è stato poco visto, perché poco circolato nelle sale, ma che è fortemente incentrato sulla musica, ovvero Frank. Michael Fassbender. Anche se è un po' monotematico, perché insomma i pezzi sono... Io ci avevo pensato a Frank. è un po' tutto la musica del suo gruppo, insomma, che è protagonista poi del film. Sì, sì, questo è vero, non c'è molta eterogeneità dal punto di vista delle scelte, però insomma è una bella colonna sonora, pure secondo me. C'è un grandissimo coraggio nel comporre ex novo dei brani che assomigliano a molte cose della musica New Wave, dei Joy Division da un certo punto di vista, e della musica invece indie di cantautori disturbati come Daniel Johnston, che è poi la fonte di ispirazione in buona parte di Frank. Quindi c'è un grosso lavoro di ricerca, ma soprattutto viene studiato come un talento così difficile e disturbato riesce a gestire il suo o a non gestire il suo genio musicale. Poi ci sono delle immagini davvero, sì, memorabili dello studio di registrazione, della lavorazione del disco, cosa rara. Nel è vero, è vero. Emanuele, io ti ringrazio. Ti ringraziamo, ci sentiamo magari prossimamente per altri tuoi consigli o insomma contributi su altri film. Sempre qui a disposizione. Un abbraccio, ciao. Abbiamo ascoltato sempre la colonna sonora del lato positivo, Good Night Moon di Ambrosia Parsley, altrimenti detto Chivalry, scritta insieme a Duke McVinney. Prima di arrivare alla stesura soddisfacente, David Russell ha lavorato alla sceneggiatura del film per 5 anni, producendone ben 25 versioni differenti. E le riprese invece sono durate soltanto 33 giorni, quindi insomma è stato bravo. E inoltre io volevo fare un po' di saluti, non so se riesco a ricordarmeli tutti, perché sono veramente tante le persone oggi all'ascolto. Dal Costa Rica ci ascoltano addirittura Michele, Julietta e poi Peter, Diletta, Monica, Samantha. Boh, chissà, mi sono dimenticata qualcuno, speriamo di no. Se me lo sono dimenticato, magari poi dopo lo ridico, strillatemi. Beh, insomma, continuiamo con la musica, e perché è veramente una bella colonna sonora questa, da ascoltare tutta. Guarapiranga é È musica brasiliana quest'oggi, abbiamo detto infatti che la colonna sonora del lato positivo è eterogenea ed eccovi qua, Guarapiranga, scritta e cantata da Thomas Di Cunto, chiamato anche Toco, compositore, musicista e produttore brasiliano nato a San Paolo nel 76, che inizia a suonare la chitarra da bambino grazie a Fernando Faro, il regista dello show TV Ensalo, a cui Toco prese parte e conobbe artisti famosissimi come Gilberto Gil, Caetano Veloso e molti altri. Abbiamo ascoltato The Dave Brubeck Quartet, Maria. Qui siamo arrivati alla fine della trasmissione di oggi, sono le 15:58, quindi vi ricordo che per sottoscrivere alla radio, questa radio, Radio Onda Rossa, una radio libera, senza padroni, che vive senza pubblicità, senza il sostegno di partiti politici, di padroncini o padroni, dovete sottoscrivere al conto corrente postale 61804001 intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volci 56 00185, Roma, e potete sottoscrivere anche comodamente dal vostro divano, dalla vostra poltrona di casa, cliccando, entrando nel sito della radio www.ondarossa.it appunto info su Sostieni Onda Rossa, è facilissimo, dovete soltanto cliccare e dare le vostre coordinate della vostra carta di credito e fare dare un contributo alla radio che ne ha bisogno assolutamente, perché la radio vive del contributo degli ascoltatori e di tutte le persone che la amano, quindi fatelo, non perdete tempo. Ah, ricordo anche che potete contattarci all'email tracce di cinema@ondarossa.info. C'è anche una pagina Facebook che si chiama Tracce di Cinema, e quindi vi salutiamo dai microfoni della radio, saremo con voi di nuovo giovedì prossimo. Un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici che ci sostengono soprattutto la sera quando abbiamo bevuto troppo. Ciao. With magic Polynesian charm, the moon of Manakura came inside and brought.